Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Italiani brava gente, italiani dal cuore d'oro. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Buongiorno e benvenuti a Luogo Comune, la trasmissione radiofonica che analizza luoghi comuni, motti, aneddoti e modi di dire per poterli confermare o smentire con l'aiuto di un ospite. In studio a tenervi compagnia per la prossima mezz'ora circa Valentino De Luca. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta e 88.9 è la foto profilo. Su Twitter, se vi piace cinguettare, digitando chiocciola luogo C, oppure se siete un po' più grafomani, scrivete sulla nostra mail luogocomune.radio@gmail.com con pareri, suggerimenti, insomma, e quant'altro. Il luogo comune che tratteremo oggi è: con la cucina gourmet si paga tanto e si mangia poco. Negli ultimi anni impazzano nei canali satellitari programmi di cucina regionale, nazionale o internazionale, con decine di chef che si sfidano ai fornelli o fanno da giudici in gare di abilità dove squadre di aspiranti cuochi si sfidano all'ultima ricetta. Gli chef, dunque, come protagonisti assoluti del tubo catodico, hanno portato nelle nostre case espressioni che mai avremmo sentito pronunciare un po' dalle nostre nonne, ovvero carbonara di pesce, emozione di pesto, trionfo di broccoli, proponendo piatti spesso lontani dal nostro quotidiano, a dire il vero. E fin qui, vabbè, ci può stare, perché parliamo sempre comunque di una parte di spettacolo, quindi è ovvio che cercano un po' di stupire e di attirare l'attenzione. Spesso però, diciamo, li condiscono queste trasmissioni con una cattiveria e un cinismo che poco hanno a che vedere col mondo enogastronomico, ma un pochino di più magari con quello televisivo. Quello che mi chiedo è, dobbiamo dunque arrenderci all'esotismo ad ogni costo? Il modello di piatti proposti sarà sempre pieno di ingredienti ricercati e costosi che sono appunto lontano dal nostro quotidiano? Le porzioni dei locali alla moda e dei cibi che vengono chiamati trendy sono destinate a farci saccheggiare il frigo non appena rientriamo da casa, cioè si mangia poco, detto in poche parole. Di tutte queste cose, e c'è tanta carne al fuoco, è proprio l'occasione di dirlo, ne parliamo in collegamento telefonico con Gabriele Rubini, conosciuto come Chef Rubio, cuoco e star televisiva, che abbiamo imparato ad amare tramite il suo Unti e Bisunti, in onda su D-Max, il canale 52 del Digitale Terrestre. Buongiorno, Chef. Buongiorno a tutti, ragazzi. Senti Rubio, diciamo che su D-Max è iniziata da poco la seconda stagione di Unti e Bisunti, appunto, dove giri nell'Italia dei mille paesi e mille piatti, sfidando gli abitanti del posto nel rifare le specialità del luogo. Lo dico per quei pochissimi che non sono stati attenti e non ti hanno seguito ultimamente. Magari saranno più di pochissimi, però comunque rinfreschiamo. Ingredienti quindi a chilometro zero, i cosiddetti ingredienti a chilometro zero, cibi di tradizione anche secolare, piatti veraci. Ma tu proprio come persona, quanto sei vicino a questo modo di cucinare? È anche un modo di intendere la vita? Allora, sentendo pure il preambolo che hai fatto, molto interessante sull'alta cucina, su come viene interpretato il messaggio sia in televisione che nei ristoranti, volevo innanzitutto spezzare una lancia a favore di coloro i quali si applicano per creare magari dei menù di 8, 10, anche 12 portate di quello che viene comunque considerato un assaggino, comunque una porzione non degna di nota, perché comunque se si va nei ristoranti giusti, che siano stellati o meno, dove c'è un percorso che magari il cuoco ti vuole far fare con 12 portate, fidatevi che uscire pieni e non andrete cercando pizze, kebab o quello che più si vuole dopo. Quindi dici, è possibile riempirsi? Tante piccole porzioni, perché sono tutti piatti studiati concettualmente perché tu possa arrivare a fine pasto senza appetito, ma neanche che non riesci a respirare. Detto questo, la disinformazione è tanta, secondo me, e ci sono alcuni che ci marciano fingendosi dei cuochi d'alto livello e quindi proponendo in meno portate lo stesso quantitativo di, appunto, di ingredienti, che quello allora fa imbestialire le persone sia comuni che quelle come me che sono addette ai lavori. E quindi c'è una mala informazione anche su quella, per quanto riguarda l'alta cucina. Purtroppo chi è venuto prima di me, che magari ho parlato di tematiche un po' più semplici e più alla portata di tutti, secondo me non ha ben comunicato che l'alta cucina non è la, non vorrei dire una parolaccia, però la cagatina nel piatto fine a se stessa, ma è un'attenzione spasmodica per ogni singola cottura o ingrediente, che poi però se uno mostra in televisione con un piatto enorme bianco con un qualcosa all'interno, ovviamente a casa pensano: oddio, mi mangio solo quello, mi sento male. Sì, quindi, o più che altro quando torno a casa poi mi saccheggio mezzo frigo. Se uno mangiasse solamente quello gli darei ragione, però se io ero il primo scettico, sono scettico di natura, e prima di scoprire il mondo dell'alta cucina pensavo anch'io di non di odiare quel tipo di offerta. Però se si va nei ristoranti giusti, ripeto, ci sono tante brave persone, tanti bravi chef che lavorano nel silenzio e nell'anonimato e fanno dei servizi impeccabili. Quindi consiglio di esplorare anche quel tipo di cucina, perché è vero sì che spendi dagli 80 ai 150 euro, ma non è vero che non vivi un'esperienza, che non mangi bene. D'altro canto però viva i piatti semplici e sostanziosi, perché comunque anche con quello si può raccontare una storia, una tradizione, comunque si può emozionare ricordando appunto le nonne che ci facevano qualche cosa o i parenti. Senti Rubio, ma tu quanto, per tornare appunto alla mia domanda, quanto sei vicino a questo modo di cucinare a chilometro zero, ingredienti di tradizione, allora, secolare, piatti veraci? Sono dell'idea che in tutti gli estremismi c'è un difetto, quindi anche questa cosa del chilometro zero è un'arma a doppio taglio, un inganno bastardo che ci propinano tutti. Alla fine sta cosa del chilometro zero è come quella del bio: il bio non esiste, il bio è un solo business, perché se si dovessero rispettare tutti quanti i parametri perché quel prodotto sia bio, fidatevi che il 90% delle cose che comprate o per cui spendete un occhio della testa non sono assolutamente bio. Detto questo, io per tu lo sai che hai lanciato una bomba così, ma lo fanno in molti, ma nessuno ha il coraggio di parlarne, quindi visto che non ha peli sulla lingua lo dico io. Per quanto riguarda il chilometro zero, io sposo appieno l'idea di utilizzare appunto quello che Madre Natura ci dà in quel periodo, in quella stagione, e se possibile appunto sposare appunto le cause dei più deboli come i piccoli produttori, perché no? Però a volte anche per raccontare un piatto che è fatto spesso di contaminazioni come quelle che ha subito l'Italia in tantissimi secoli, è necessario pure inserire degli ingredienti che purtroppo, per fortuna, non sono di chilometro zero. Però non ci vedo nulla di male se non diventi una costante, ma semplicemente un piccolo ingrediente in un piatto che racconta qualcosa. Assolutamente, però facciamo magari un passo indietro nell'atto pratico, cioè quello che io compro, tu dici bio o a chilometro zero, ci si può nascondere l'inganno. E in effetti l'inganno, purtroppo, c'è sempre l'inganno, no, certo, e anzi a questo proposito, a questo punto, visto che abbiamo questa arma potente della comunicazione radiofonica, magari i nostri radioascoltatori potranno pure informarsi in tal senso. Ma io quello che vorrei che tutte le persone amanti del buon cibo e della passione per quello che si mangia facessero è quello di andare magari in un posto e mettere in maniera molto elegante in difficoltà chi propina magari cibo, il proprietario di quel posto, chiedendo informazioni ben specifiche sulla provenienza di quel prodotto, farsi raccontare qualcosa, perché poi magari non lo sta ingannando, ma anzi gli sta omettendo una bellissima storia che solamente i curiosi poi riusciranno a scoprire. Ma invece per quanto riguarda la filosofia che c'è dietro, quindi lasciamo un attimo la parte economica, facciamo un passo indietro, vediamo un attimo la parte filosofica, vivere a chilometro zero, diciamo una visione bio della vita è una cosa che diciamo senti vicino a te, oppure insomma è una filosofia che proprio non ti appartiene? Io al momento ho la fortuna di girare molto e di conoscere tante realtà, e prima magari era il mio obiettivo, però non avevo la possibilità come ce l'ho oggi, e sinceramente sto scoprendo tante realtà e mi sto facendo una visione un po' più ampia di quello che era il mio credo. Sinceramente quando riuscirò a rallentare i ritmi credo che sposerò anch'io l'ideologia di avere un piccolo orto, se mai dovesse avere un giorno una casa, fare amicizia con il tizio che ti fa il latte caprino e poi da lì farci i formaggi. È una cosa che condivido e che spero che parecchie persone sposino, per uno per mangiare meglio e due per ricreare un pochino anche la forma del baratto, del passarsi le cose, dello scambio, insomma. Da lì nascono le storie e le cose belle. Senti Rubio, ma io per prepararmi a questa puntata ho visto un pochino, mi sono andato a leggere la tua biografia, oltre a ovviamente a seguirti nelle puntate, quello già lo facevo, però leggendo la tua biografia è venuto fuori dei particolari interessanti, ma innanzitutto che tu sei un autentico giramondo. E per giramondo intendo Nuova Zelanda, Canada, ho letto Seoul, hai ovviamente base sempre qua a Roma, anche se sei originario di Frascati, giusto? Frascati, no? Sì. Ma iniziamo un po' con ordine, ma a 22 anni come ti è venuto in mente di andartene in Nuova Zelanda? Lo schizzo mi è stato dato dal mio procuratore Cristiano Turi, che mi tutelava a livello rugbistico, e mi ha detto, avendo capito che ero un po' infelice per quanto riguarda la situazione rugbistica, quello che mi aspettavo di espatriare e di andare a provare all'estero, e al tempo stesso ero anche stufo del sistema scolastico, comunque degli studi offerti in Italia, comunque alla Sapienza a Roma, per cui io facevo giurisprudenza e ogni volta mi vedevo cambiare la data dell'esame oppure il professore non si presentava mai, quindi ho deciso da quel momento che il mio destino sarebbe ripreso semplicemente. Per fortuna adesso le cose sono totalmente cambiate. Che cosa? Per fortuna adesso le cose sono totalmente cambiate. Sì, no, io ti parlo di 10 anni fa, quindi... No, era una battuta. Guarda, se ti riscrivi okay, all'università trovi la stessa situazione, non ti preoccupare. Ah, ok, perfetto. E quindi ho deciso di prendere un biglietto e andarmene in Nuova Zelanda per giocare a rugby e per vedere se quello che fino a quel momento era una passione poteva diventare un lavoro, e quindi appunto ho iniziato a lavorare in cucina e di lì poi tante esperienze fino ad arrivare oggi. Quindi, ma tu eri già comunque appassionato per fatti tuoi, diciamo, del mondo... Era semplicemente un hobby che però non avevo mai visto come uno sbocco lavorativo, perché appunto puntavo sul rugby e puntavo anche su uno studio che poi invece mi ha deluso. E quando invece è cominciato, insomma, a esserci questo passaggio a dire ma potrebbe diventare il mio futuro, proprio la mia vita potrebbe diventare? Ma quello è avvenuto lentamente, pian piano, perché comunque a 21 anni, 22, mettersi in cucina quando magari ci sono persone che già da 5-6 anni lo fanno, non ti senti nelle condizioni di dire wow, diventerò magari qualcuno, dirò la mia. Cerchi semplicemente di imparare il più possibile, di fare tesoro di quelle esperienze che vai raccogliendo. Quindi sono stati diversi step dopo che mi hanno fatto capire che magari volevo dire la mia in cucina, comunque comunicare un mio messaggio. A quel tempo ancora pensavo a lavorare ed imparare, adesso è lo stesso, ma ho una piccola sicurezza in più che mi permette di dire la mia, però comunque ripeto, il processo di apprendimento è sempre dietro l'angolo e in continua espansione. Ma tu adesso in che rapporti sei rimasto con il rugby? C'ho un fratello più piccolo che ci gioca ancora e ha fatto molta più carriera di me, quindi per amicizia in comune ancora ogni tanto ci butto un occhio quando c'ho tempo, che non c'ho adesso, vado a vedere qualche partita, però detto questo non lo pratico più da 4 anni. Senti, una cosa che mi ha sempre incuriosito, questo, sempre leggendo appunto la tua biografia, questa passione per il rugby e anche per la cucina, ma insomma io quando vedo le tue puntate vedo che affondi i denti nelle TL, nei calzoni, nei supplì, però insomma diciamo per uno sportivo, io penso che comunque rimani sempre uno sportivo, anche se non a livello agonistico, e comunque già ti piaceva all'inizio, infatti l'hai detto anche quando avevi 20 anni appunto, ma come si può coniugare l'amore per il cibo, per il buon cibo, però mantenersi sempre in forma, seguire un regime, seguire una dieta, eccetera. Guarda, a parte che sono un falso magro, mi aiutano molto magari le spalle a far scendere meglio la maglietta, però no, questa è una bella cosa, a parte gli scherzi, lo sport che ho fatto, che ho praticato per anni, mi ha permesso sempre di avere un fabbisogno giornaliero di calorie non indifferente, quindi ho sempre mangiato di tutto e di più e non mi sono fatto il minimo problema. Adesso magari ho ancora qualche retaggio di quel periodo e quindi riesco a tener botta, però non ti nego che quando ho fatto la prima serie, ho preso 10 kg, ho dovuto un attimo regolamentare l'alimentazione, ricominciare a correre la mattina presto, prima delle riprese, insomma ci sono dei sacrifici da fare per poter mantenere la linea, niente viene così. Ma Rubio, tu senti, ti appunto hai detto la prima serie perché siamo giunti quasi alla conclusione della seconda serie appunto, sì, di Unti e Bisunti, tra l'altro lunedì sera alle 22 su D-Max andrà proprio in onda la puntata da Chioggia, mi pare, giusto? Sì, sarà l'ultima puntata, ma non l'ultima effettiva, perché poi ci saranno due puntate di Best Of, però sì, Chioggia sarà l'ultima puntata. E diciamo, quindi tu sei da un paio d'anni, hai cominciato questa avventura nel mondo televisivo. Prima avevi avuto un'esperienza in tal senso? Guarda, a parte che sono ancora un anno e mezzo, quindi ancora meno, prima di questa esperienza qui mi era capitato per un film di un mio amico che faceva l'aiuto regista sul rugby, appunto, con alcuni compagni di squadra, di fare una particina, ma proprio a livello proprio agonistico di rugby e nel film Il terzo tempo, però no, non ho mai avuto nessun tipo di esperienza di questo genere. Tu ti consideri una persona di spettacolo? No, io mi considero un essere vivente che vuole fare le cose che più gli piacciono. In questo momento la mia passione mi ha portato a fare a raccontarmi in maniera differente, non più nella sfera privata, ma in quella un po' più ampia. Non mi dispiace, di certo non ho studiato e non ho fatto le mie mosse perché arrivassi in cucina in televisione, quindi non mi ritengo un uomo di spettacolo. Poi se faccio bene quello che faccio, questo sta agli spettatori o agli addetti ai lavori dirlo, io non mi preoccupo di quello, finché mi chiederanno l'opinione, il parere lo darò, poi quando non ci sarà più questa tensione intorno al sottoscritto non mi strapperò i capelli, che stanno diventando sempre di meno, perché possa rimanere all'interno di questo mondo. C'ho tante cose che mi interessano a questo mondo fortunatamente, quindi non temo niente. Rubio, tu in questo anno e mezzo appunto, come hai precisato, tu sei stato dall'Abruzzo alla Sicilia, alla Puglia, vabbè, Lazio neanche te lo dico, nel nord, nel sud, ma il tuo è un peregrinare sicuramente gastronomico, è ovvio, però questo tuo peregrinare ti avrà lasciato delle impressioni sul nostro paese. Tu che Italia vedi facendo il tuo lavoro? Viaggiando tra la prima e la seconda serie ho visto tante persone che faticano, che lo fanno però col cuore e di conseguenza gli pesa un po' di meno che farlo senza passione, però faticano tanto e sono stato contento insieme alla troupe e a chi ha lavorato per questo programma di aver dato un po' più di risalto a delle situazioni che altrimenti magari si sarebbero perse o che magari avrebbero faticato un po' di più, quindi tanta fatica però tanto orgoglio. E quindi ho visto un paese vivo, non ho visto un paese di rinunciatari come spesso magari ci fanno credere, quindi c'è dell'anima sotto, sta solamente alle nuove leve o a chi magari si rifugia dietro un dito abbassare quel dito e cominciare a pedalare tutti insieme, perché se a parole siamo tutti buoni, però bisogna fare i fatti. Quindi hai avuto un'impressione, insomma, positiva nel tuo viaggio in Italia? Vedi tante realtà artigianali? Tante situazioni, tanto disagio, però è un disagio che non è annichilito, è un disagio che è in fermento. Quindi se non è oggi è domani, se non è domani è dopodomani, qualcosa si modificherà in meglio. E invece, proprio per tu che hai viaggiato oltre che per l'Italia, adesso per lavoro in quest'ultimo anno e mezzo, come abbiamo detto, ma che hai viaggiato proprio nel mondo, invece le cucine all'estero e proprio il tuo stare all'estero, che cosa ti hanno insegnato? Che cosa hai imparato del mondo? E poi la seconda domanda è invece come ci vedono invece all'estero? Noi che siamo così critici, come hai appena detto, noi che siamo sempre molto pessimisti, soprattutto in questo periodo storico siamo molto pessimisti nei nostri confronti e ipercritici, nulla può cambiare, va tutto male, non c'è speranza. Invece all'estero che opinione hanno di noi? Vabbè, quello, allora, rispondo prima alla seconda, così ci leviamo un discorso estero-Italia. Ci vedono sicuramente meglio di quanto non ci vediamo noi dal di dentro, ma lì sta pure nella comunicazione che si fa dell'Italia all'estero, quindi se magari non arrivano determinate notizie loro pensano che vada tutto bene. Detto questo, continuo a ripeterlo, piangerci addosso non serve a nulla e bisognerebbe un attimo abbassare le penne e cominciare a trottare, perché le cose non cambiano da sole. Quindi all'estero comunque ci abbiamo una bella considerazione, levato il fatto che magari ci vedono sempre come furbetti o comunque genius di regolatezza. Per quanto riguarda invece le cucine che ho visitato, che ho assaggiato, la cosa che ho imparato è che l'Italia non è assolutamente la migliore al mondo, sono presso a poco, per storia, esperienza e qualità tecniche, quasi tutte allo stesso livello, ognuna poi ha una particolarità in più, c'è chi è magari più discreta e non ha fatto della propria cucina un brand come l'Italia, invece in giro per il mondo, che però non è da meno della cucina appunto dello stivale. Detto questo, sono... Che lo sai che stai smontando uno dei luoghi comuni culinari per eccellenza? Cioè che la cucina italiana sia la migliore al mondo? Ma lo è per chi non è mai uscito dall'Italia, oppure lo è per chi vuole farci un business. Le cucine sono tutte affascinanti e nessuna prevalica l'altra, se non per una questione soggettiva, perché alla fine ovunque trovi delle cucine fantastiche dettate che sono anche 1000 anni o 2000 anni più antiche di quelle dello stivale, però zitte, fanno le cose che noi qui ci sogniamo, viceversa ce ne sono di meno interessanti o meno secolari della nostra che appunto si spacciano per essere più buoni di noi. Quindi io direi semplicemente di guardare ognuno il proprio orticello e di fare del proprio meglio, poi sta veramente al palato, al periodo, alla situazione decidere se quella in quel momento è la migliore o meno. E una tua preferenza personale invece? Ma io stimo all'inverosimile la cucina italiana, è quella che alla fine mi ha dato il palato che ho e le chance, le esperienze di poter paragonare poi la mia con altre cucine. Però come italiana c'è quella asiatica, quella medio orientale che è altamente salutare, attenta ai bilanciamenti, ha un'offerta vastissima e che causa contaminazioni ci ha permesso anche di avere dei prodotti che oggi ci sogneremmo altrimenti. Quindi sono per una cucina sì settoriale o di nazione, però mi piace più intenderla a livello globale, perché viaggiando non ho un termine di paragone, ma ce l'ho diversi, quindi non sentendomi neanche cittadino puramente italiano, ma magari potrei scendere in un banalismo, cittadino del mondo, appunto stessa cosa a quello che considero per la cucina. Il cibo di strada che si vede nelle tue puntate è quello, insomma, che ti lascia il baffo unto, quello fritto e ripieno, insomma. Come si fa a godere della cucina casareccia senza avere i sensi di colpa per l'estate alle porte, anche se Roma in questi giorni sembra Amburgo a novembre? Quindi... Allora, però facciamo finta che l'estate alle porte, Rubio. Che cosa? Facciamo finta che l'estate alle porte. Anche. No, facciamo finta, dimentichiamoci questi 4 giorni atroci. Allora, no, si possono veramente fare diversi strappi alla regola. Io non mi sono mai fatto mancare nulla in vita mia, semplicemente perché ci ho sempre applicato appunto del sacrificio in tutto quello che facevo. Quindi se so che vado a mangiarmi al mercato di testaccio, l'allesso alla picchiapò, le bobbette di bollito, magari la sera mangio un po' più leggero, la mattina mi carico un po' meno di roba, il giorno dopo vado a fare una corsetta se ho tempo, o in una stanza 4x4 mi faccio un po' di piegamenti ad addominali. Cioè, bisogna un attimo anche scendere a compromessi, però visto che il cibo per me è vita, non mi faccio mai mancare nulla di questo tipo, quindi consiglio semplicemente di farsi una bicicletta, una nuotata, una corsa, e puoi prendere tutto quello che vuoi, soprattutto adesso che comunque la temperatura è bassa e quindi un po' di calorie in corpo non fanno male. Ok, quindi non è vero, ma tu l'hai risposto proprio alla prima domanda, che insomma, se io adesso ti dicessi che col cibo gourmet invece questo problema non c'è, perché alla fine mangiando insomma con delle porzioni moderate, così in un certo senso mi autocontrollo, però mi hai detto che così non è vero, insomma, mi pare di capire, no? Che cosa del cibo gourmet? Sì, che il cibo gourmet alla fine non è che ha proprio non è propriamente vero che ha delle porzioni insomma moderate, che insomma la dieta me la fa fare il cuoco in un certo senso. È vero, ma è niente, perché se, appunto, se vai in un ristorante di livello e ti metti seduto e ti fai 12 portate, anche il più mangione delle trattorie sfido a vederlo non in difficoltà al momento del dolce, e io sono un mangione e ogni volta quando c'avevo la possibilità di andare da amici o da colleghi che facevano questo tipo di cucina, arrivavano in difficoltà al dolce, quindi sarebbe bello pure che l'alta cucina venisse appunto comunicata in maniera corretta, altrimenti non si cresce. Rubio, prossimi appuntamenti, diciamo appuntamenti col pubblico, l'abbiamo ricordato, insomma, dopo la puntata di Chioggia lunedì sera alle ore 22 su D-Max e i due best off, ai progetti futuri? A livello da comunicare al pubblico? Da comunicare al pubblico, insomma, quello che ti sente. Per quello una vacanza, innanzitutto, che però non sarà possibile fare prima di agosto, perché prima ho dei lavori da portare a termine. E poi per l'autunno, chissà, non riesco a vedere oltre il mese e mezzo, quindi spero, qualora servisse il mio apporto alla causa, di rivenire appunto coinvolto in qualche progetto, altrimenti continuerò a fare quello che ho fatto fino adesso senza la luce del palcoscenico sopra la testa. Rubio, io ti ringrazio veramente per essere stato nostro ospite, grazie mille. Grazie a te. E salutando appunto Gabriele Rubini, al secolo chef Rubio, per essere stato nostro ospite, siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Luogo Comune. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori a visitare il sito www.radiocittàaperta.it per essere sempre aggiornati su tutte le iniziative della radio e per sostenere Non Esistono Più Le Mezze Stazioni, la campagna di raccolta fondi a favore di questa bella realtà romana. Non mi stancherò mai di ripetervi i contatti dei social. Perché ve li ripeto? Perché sono importanti in questo mondo social. Tra l'altro, noi abbiamo fatto diciamo anche diverse puntate che trattavano di social e quant'altro, in particolar modo di Facebook. Proprio su Facebook mi dovete cercare, Luogo Comune è il nome, 88.9 è la foto profilo, quindi mi riconoscete subito. Vi piace cinguettare? C'è Twitter, @luogoc, e mi trovate anche lì come Luogo Comune. Siete più grafomani, vi piace insomma scrivere, oppure avete anche proprio delle cose da scrivere. Guarda, Valentino, a me la prossima volta mi piacerebbe fare Luogo Comune su eccetera eccetera, quindi suggeritemi e io volentieri seguirò i vostri consigli. luogocomune.radio@gmail.com. Da Luogo Comune è tutto, l'appuntamento è per venerdì prossimo alle ore 13:30. Adesso le puntate si stanno avviando verso il finale, vediamo un po' fino a fino a che punto, insomma, continuare, a che punto della stagione estiva continuare luogo comune. Di sicuro mi trovate però sugli 88.9 di Radio Città Aperta, quindi da Valentino De Luca un buon venerdì e soprattutto un buon weekend. Ciao!